Qualche saluto. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Roger Kerber, Roger Kemper dalla Puglia per la Formaldehyde Records e altre realtà dell'industrial noise, Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal, dalla Sardegna sempre Maya, il medico della peste. Nadir Persegona, lo salutiamo di Os insieme a Spinelli, il grande Spinelli, interessante progetto di Doom Industrial. Tabua Rasa, Cortina D'Ampezzo, Laura Milano, Alessandro Ragazzo, del quale ascolteremo un suo paesaggio tra qualche minuto, anzi più in là nella trasmissione. Daniele della Hellbones Records, Francesco Bergamo. Un abbraccio a Gianluca Becuzzi, Antonio Zoviet di Omicidio da Firenze. E poi Lucia Cagliazza in arte Lupsi, anche lei interessantissima musicista da Udine, Arianna Digne Rombardo e Flavio Derbecant di DP Pit Noise Cluster. Allora, si va ad iniziare e lo facciamo con un album interessante uscito nel 2020 e che riguarda i Nine Inch Nails. Sappiamo l'interesse di Trent Reznor anche verso sonorità riconducibili all'ambient, al dark ambient, all'elettronica, e nel 2020 ci ha donato altri due capitoli della saga Ghost, esattamente il quinto e il sesto. Ricordiamo il primo, secondo, terzo e quarto sono usciti, se non erro, nel 2012, andrò a vedere meglio. Ha aggiunto valore con questi due capitoli, Ghost numero 5 con il nome di Together e un altro capitolo, il sesto, dal nome Locust. Peraltro sono stati fatti uscire anche sia in maniera separate ma anche insieme. Ci ascoltiamo la traccia di apertura, questo Letting Go While Holding On. Thank you. inizio di prove tecniche di trasmissione dedicato a Nine Inch Nails di Trent Reznor e Atticus Rose. Questo è l'unico musicista che ha partecipato alla stesura di, sia di Together e sia di Locus. Questi due doppi lavori, questo doppio lavoro uscito nel 2020 attraverso la New Corporation, etichetta di Reznor stessa. Album anomalo, decisamente più immobile e dilatato, riconoscibile per esempio da questi fraseggi pianistici e da queste atmosfere che in qualche modo rimandano alla tradizione del Nine Inch Nails, anche se il rock evoluto che conosciamo è assai lontano da queste note e da questi spazi. Non so se in formazione è rientrato Alessandro Cortini, per esempio su Discogs lo cita, ma io sapevo che invece ormai era un discorso chiuso, a parte le collaborazioni estemporanee. Anche su Ghost dall'1 al 4, quei quattro capitoli usciti nel 2008. Saluto Like Wake, pezzo di storia ambient a Roma, Loredana sempre qui a Roma. Valentina, anche lei. Solar Lodge con Fulvio Biondo, anche lui. Lo abbiamo mandato, lo manderemo in futuro il buon Solar Lodge, Enrico Cerrato di Petrolio, che ha una prossima novità con la Deft Records londinese. Lo ascolteremo a tempo debito. Sasha Rovelli di Lucesia a Bellinzona. Saluto Alessandra Fiamignano al confine con l'Abruzzo, Jean-Claude Auberto in Val d'Aosta. E noi invece andiamo avanti, sentite questo, quanto è bello questo pianoforte che va sotto la mia voce, che ci fa da viatico a un altro, anzi a due altri pianoforti che appartengono a Mara Lepore e Francesco Arrighi, trattati elettronicamente da Cristiano Bocci in un'opera veramente summa dal nome Anagrammi. Anagrammi che esce con la Nesplay Sounds Group di Raffaele Pezzella, quattro lunghe tracce che ci donano per l'appunto una performance sul lato sinistro di un pianista e sul destro dell'altro, e poi Cristiano Bocci che rimette tra virgolette tutto in ordine, costruendo, ricostruendo, creando dei suoni in reverbero, sfruttando appunto in senso buono l'arte suntuosa di Francesco Arrighi e Mara Lepore per l'appunto. Quindi ci ascoltiamo la terza traccia, la terza traccia di Anagrammi, che si chiama Rare frasi che porgano lacrime. Era questo Cristiano Bocci, Mara Lepore e Francesco Righi in Anagramme. Mi dicono che per qualche istante è andato via il player dell'internet, la possibilità di ascoltarci via web. Credo che adesso sia tornato tutto in ordine. Comunque ricordo ancora una volta, tutto ciò mi dà il là per ricordare che domani ci sarà naturalmente la registrazione di questo programma, e quindi per chi volesse se la può anche riascoltare. È geniale dunque il trattamento che ha fatto Cristiano Bocci della perizia artistica di Mara Lepore e Francesco Arrighi, quest'ultimo dall'impronta anche jazz. Noi andiamo avanti rimanendo sempre nella medesima etichetta di Raffaele Pezzella, e lo facciamo andando in Messico. Questo Mexican Music Survey, Anthology of Experimental Music from Mexico. Lungo il titolo, ma il concetto mi sembra abbastanza chiaro: un viaggio nel Messico più sotterraneo e sperimentale, con la costanza e la perizia di Raffaele Pezzella, che è andato a pescare questi progetti veramente dal sottosuolo. Il primo artista si chiama Roberto Romero Molina e ci farà ascoltare Scandinavia Porala Delta. C'è un sito che lo riguarda, romeromolina.com. E poi ci ascoltiamo Mito del Desierto con Larva Ella che trastorna. Bellissimo il Mito del Desierto. E anche il Mito del Desierto ha una pagina Bandcamp. Via. Estaba como a 500 metros el nivel de la lava. La lava escurría de aquí del volcán. Y haz de cuenta que coges una pala con el plomo. Sí. La volteas así. Entonces queda una especie de tope. Entonces visionarie di questo artista messicano Roberto Romero Molina e Scandinavia por Hala Delta. Queste altre turbulenze provengono invece dal mito del deserto. Se la vela de tu propia piel. un vero e proprio viaggio nei recessi dell'anima. È questo che ci ha portato queste, che ci ha fatto, come dire, provare queste due tracce estratte dal Mexican Music Survey, questa antologia della musica sperimentale ultra sotterranea proveniente dal Messico. Un'ottima scena, devo dire. E di questo si va a ringraziare naturalmente Raffaele Pezzella. Quest'ultimo era il mito del desierto con Larva Hella che trastorna. Intanto saluto anche Eugen Vintras dei Gin. Presto ci ascolteremo anche il suo nuovo lavoro. Lo salutiamo a lui che ci sta ascoltando dalla splendida Venezia. Vorrei tornare un secondo su Nine Inch Nails. Ringrazio Antonio Zoviet che mi ha reso edotto dal fatto che effettivamente era presente anche Alessandro Cortini come ospite, anzi come protagonista proprio di In Together e Locust, i due ultimi album di Nine Inch Nails. Streaming va e viene, adesso è tornato e noi andiamo avanti, però rimaniamo sempre nella grande famiglia di Raffaele Pezzella e ci trasferiamo nell'etichetta parallela che è la 8 Tower Records. E lo facciamo approfittando di questo ultimo, terzo lavoro di Nihil Impulse, progetto di Francesco Di Stasio, anche lui campano di Caserta, ma lui fluttuante tra Roma e Berlino. Si chiama appunto Stasis questo lavoro, che si muove tra ambient e schegge noise, per cui ci ascoltiamo Krank Eisfelder, la prima traccia, e Psychic Plug. ancora Nihil Impulse da questo Stasis. 21:41, queste prove tecniche di trasmissione naturalmente su Radio Onda Rossa. Durchgeführt und entziehen sich dadurch körperliche Befriedigung zu verschaffen. Seine Persönlichkeit ist labil und abartig. Die folgenschwerste Störung ist ein ausgeprägter Sadismus. Eine Geisteskrankheit liegt jedoch nicht vor. Dass durch das Zufügen von Schmerz und durch Gewaltanwendung bei anderen Menschen Lustgefühle entstehen können, ist dem Patienten schon seit frühester Kindheit bewusst. Seine Beziehung zur Umwelt ist hochgradig gestört. Das ist darauf zurückzuführen, dass er bereits als Säugling von der Mutter zur Großmutter abgeschoben wurde und später nie stabile Familienverhältnisse kennengelernt hat. Der Patient ist zwar voll zurechnungsfähig, es kann aber nicht von einer Schuld im herkömmlichen Sinn gesprochen werden. Die Aussicht auf Strafe hat ihn nicht von seiner Tat abhalten können. Urteil im Namen des Volkes. Lebenslange Zuchthausstrafe. fa felicemente esordio nelle mie selezioni questo progetto romano dal nome Nihil Impulse. Si chiama Stasis questo suo lavoro, che esce attraverso la 8 Tower Records di Raffaele Pezzella. Inquietudini e sentieri oscuri caratterizzano questo Stasis, che uscì in una versione diversa 2 anni fa ed è stato ripreso, corretto e probabilmente arricchito in questa versione, in questa nuova versione del 2020. Saluto intanto Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, realtà storica dell'industrial. Tiro in ballo Antonio Zovi e te lo vado a ringraziare perché qualche giorno fa ha postato su Facebook un video dei Current 93 dal nome Alone into the Alone, e io lì per lì non l'ho riconosciuta e ho scoperto che effettivamente appartiene a un disco che io avevo trascurato, forse reputandolo un album minore dei Current 93 di David Tibbet, ossia Live at Bar Maldoror. Ho scoperto che poi c'è anche una versione arricchita di 2 tracce estratte da From Torture to Conscience, una compilation, una vecchia compilation della New European Record, e quindi l'ho ritirato fuori e ci andiamo ad ascoltare la prima parte di questa lunga Alone into the Alone, una canzone di ben 19 minuti, ce ne ascolteremo circa 10. David Tibbet letteralmente invasato è una prova tecnica in trasmissione dai contorni decisamente lisergici. Ho ritirato fuori questa traccia dopo tanto tempo. Forse l'avevo sentita tantissimo tempo fa distrattamente, invece grazie ad Antonio Zovet l'ho rivalutata e anzi mi spingo a dire che uno degli episodi migliori e più intensi proprio di Current 93. Ce ne siamo ascoltati una prima parte, gli altri 9-10 minuti ce li ascolteremo mercoledì prossimo. Pensate che formazione in questo album: David Tibbet, Steven Stapleton di Nars With The Wound, che fungeva anche da produttore, John Murphy, il compianto John Murphy, altrettanto compiantissimo John Balance dei Coil e John Fothergill. Live at Bar Maldoror. Ha riportato molti di noi indietro.